Focus Economia. Buonasera Focus Economia, io sono Enrico Brivio, sono le 17.08. Vi ricordo il numero per gli sms 349-238-6666 e poi la pagina di Facebook di Focus Economia. Oggi una giornata di borse in positivo, quindi si sono abbastanza rasserenati i mercati. Poi parleremo anche del caso RCS, che ha tenuto banco in borsa con il titolo sospeso per eccesso di rialzo, e anche dello scandalo sui derivati, ancora uno scandalo che ha dato luogo all'inchiesta da parte dell'antitrust europeo su accordi sospetti illegali tra banche di investimento. Ma andiamo con le notizie in breve. L'oro in rialzo oggi a 1,42 dollari l'oncia, continua il recupero quindi dell'oro, che aveva toccato invece alla fine della settimana scorsa i minimi d'agosto 2010. Quindi una lieve ripresa oggi in apertura di settimana, mentre il petrolio pure apre in rialzo a 97,48 dollari al barile. E andiamo con le notizie dall'estero. Putin al forum degli esportatori ha lanciato delle dichiarazioni bellicose contro l'Europa e soprattutto contro il pacchetto europeo sul gas. Secondo Vladimir Putin, queste misure che vogliono l'unbundling, cioè la separazione tra produzione e distribuzione di energia, penalizza in particolare i produttori, e quindi c'è una guerra in atto da parte del leader del Cremlino nei confronti dell'Europa. Ma c'è qualcun altro che è arrabbiato con l'Europa ed è la Cina. La Cina ha aperto un'inchiesta antidumping sul vino europeo. È arrivata l'apertura ufficiale dopo la minaccia per la inchiesta che Bruxelles aveva avviato sui pannelli solari cinesi. Come ritorsione, Pechino ha deciso quindi di aprire un'indagine antidumping che può fare molto male all'Italia, alla Francia soprattutto, che esporta molto in Cina. Ma in una nota il portavoce del commissario Karel De Gucht ha detto di aver appreso questa notizia da parte della Cina con delusione. Bruxelles esaminerà in dettaglio se il caso cinese è veramente coerente con le regole del WTO, perché non dimentichiamolo, Pechino ora ha aderito a quella organizzazione commerciale. E poi un'altra inchiesta dell'antitrust europeo, dalla Commissione europea, un'inchiesta su grandissime banche, da Goldman Sachs a Deutsche Bank. Ne riparleremo poi più avanti, approfondiremo questa inchiesta sul mercato dei derivati tra il 2006 e il 2009, cioè accordi tra queste grandi banche che avrebbero violato le regole di concorrenza comunitaria. E in Grecia, ahimè, dopo la televisione tocca agli ospedali. Il ministro della salute, Adonis Georgiadis, ha affermato che potrebbero esserci chiusure di ospedali al fine di ridurre la spesa sanitaria nazionale, nel rispetto dei più stringenti parametri di bilancio. Georgiadis ha affermato che nelle prossime 2 settimane verranno prese delle decisioni, e ha aggiunto: se dovrò chiudere degli ospedali, lo farò. E E veniamo all'Europa con lo spread BTP Bund calato a 272 punti base sull'onda di dati piuttosto rassicuranti o quantomeno non così bui come erano stati in passato da parte del mondo produttivo, soprattutto dei paesi periferici. Quindi qualche segnale di timidissima ripresa che ha dato respiro allo spread BTP Bund. E poi, vabbè, un giudizio forse da prendere un po' con le pinze, perché viene dall'agenzia di rating cinese Dagong. Però, insomma, registriamolo. Secondo Dagong, il rating dell'Italia non migliora perché manca una svolta. Il rating del debito sovrano non ci sembra rilevare possibilità di miglioramento, ha indicato Zhang Zhong, il presidente della Dagong. Quindi nessun riferimento all'eventuale impatto della questione dei derivati, ma semplicemente una visione non del tutto positiva sulle possibilità di ripresa dell'Italia. E poi dati sulla disoccupazione ancora piuttosto brutti. La disoccupazione a maggio ha raggiunto il 12,2%, il record dal 1977. Lo ha rilevato l'Istat, è il nuovo massimo storico. Il livello più alto sia dalle serie mensili del gennaio 2004 che da quelle trimestrali. E a perdere il lavoro sono meno 387.000 occupati, sono soprattutto gli uomini. Quindi oltre 3 milioni di disoccupati a maggio, più di 480.000 sull'anno. Insomma, il quadro della disoccupazione rimane buio, rimane veramente sconsolante, e semplicemente per i giovani è calata a 38,5%, magra consolazione, però in calo di 1,3 punti percentuale su aprile, anche se in rialzo di 2,9 punti base su base annua. Comunque una disoccupazione giovanile, come sapete, che viaggia al 38,5%, in Europa ce l'hanno in pochi. E il ministro del lavoro Giovannini lo ha ribadito che la situazione resta molto grave. Il fatto che il tasso di disoccupazione continui a crescere testimonia la gravità della crisi. La ripresa non è ancora iniziata. Tutti gli indicatori ci dicono che potrebbe riprendere nel corso dell'autunno. Così ha detto il ministro del lavoro, e anche noi speriamo che con l'autunno qualche dato più confortante arrivi. Anche il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, ha registrato che il tasso di disoccupazione a livelli peggiori dal 1977 è un dato che purtroppo ci si aspettava, ma che è deludente, riflette l'andamento dell'economia reale e della sensazione che si ha in Confindustria. Interpellato da Fabio Pisano, il presidente di Confindustria Squinzi ha poi commentato anche la situazione dell'industria elettronica ed elettrotecnica alla luce dei dati presentati oggi. Dati che mostrano un calo del fatturato del settore del 12% a 63 miliardi di euro, ma anche qui qualche prospettiva di nuove assunzioni per il prossimo anno. Ma sentiamo le parole di Giorgio Squinzi. Sicuramente io penso che il settore è in linea con l'andamento dell'economia nazionale, come un po' tutti i settori. No, tra l'altro questo settore è anche abbastanza vicino al settore dell'edilizia, che è forse quello che in Italia è stato più penalizzato in questi ultimi anni. Il fatto che nella seconda parte dell'anno probabilmente vedremo un passaggio da negativo a una piccola positività ci lascia sperare un minimo per il futuro. Speriamo di poter accelerare il progresso verso una ripresa. Ma noi le cose che chiediamo le abbiamo esplicitate più volte: pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, intervento deciso sul costo del lavoro, e rimodulazione in modo particolare del carico fiscale sull'IMU, in modo particolare sull'IMU, che non vada a colpire le attività produttive. Se si può evitare l'incremento dell'IVA, noi siamo sicuramente favorevoli. Comunque il gettito dell'IVA, se non si riuscirà ad annullarlo, ma è semplicemente un rinvio, almeno che venga utilizzato per ridurre il carico fiscale sull'IRPEF. E sulla situazione dell'industria elettronica ed elettrotecnica italiana è poi intervenuto anche Claudio Gemme, presidente dell'ANI, intervenendo sulle nuove assunzioni che si potrebbero prospettare per il prossimo anno. Si parla di 1.500 ingegneri e 2.000 diplomati, ma sentiamo le parole di Claudio Gemme. Devo dire che c'è stato un calo enorme dal punto di vista degli addetti. L'ANI, che raggruppa la federazione, raggruppa 11 associazioni con 450.000 addetti l'anno scorso. Se traguardiamo oggi sono 425.000, quindi c'è stata una congiuntura molto difficile. Il segnale positivo è che da un'indagine che abbiamo fatto tra gli associati ci sono in programma assunzioni. 2.500 ingegneri, 1.500 diplomati sono sicuramente un programma che gli associati hanno e questo è un segnale positivo. Un lieve recupero della produzione c'è in realtà stato a giugno, un più 0,1%, lo ha rilevato il centro studi di Confindustria. L'incremento della produzione industriale dello 0,1% è stato su maggio. Per il secondo trimestre 2013 il centro studi stima una riduzione della produzione però del meno 0,8% sul primo, mentre il terzo trimestre inizia con un abbrivio positivo grazie al più 0,2% di variazione congiunturale ereditata dal secondo trimestre. Quindi qualche piccolissimo segno di vitalità ancora c'è. Continua poi l'avvertenza Indesit, ancora proteste con i sindacati che in un comunicato congiunto CGIL, CISL, UIL, FIOM, FIM e UILM hanno affermato che l'atteggiamento di chiusura della Indesit è devastante per tutto il territorio. La situazione quindi rimane molto conflittuale e difficile. E però alle Marche arriva un premio, proprio a questa regione in cui c'è questo caso industriale difficile. In realtà alle Marche è arrivato il premio Regione Imprenditoriale Europea, che è stato consegnato dal Comitato delle Regioni d'Europa. Quindi le Marche sono la prima regione italiana ad ottenerlo, quindi insomma un riconoscimento di un certo valore per i distretti marchigiani che continuano comunque a macinare lavoro. E poi la politica, ecco il governo Lupi. Sul governo il ministro delle infrastrutture Maurizio Lupi ha affermato che non c'è nessuna fibrillazione. Ha parlato al microfono di Fabio Pisano, quindi riferendosi a queste punzecchiature prima arrivate da Matteo Renzi, poi da Mario Monti. Lupi ha risposto che la vita del governo sarà lunga o breve a seconda di come agirà. Sentiamo le parole del ministro Lupi. La vita di questo governo sarà lunga o breve a seconda se farà bene o non farà bene la ragione per cui è nata. Ed è evidente che i temi economici sono la vera ragione per cui questo governo è nato. A me sembra che se dal 1° luglio i cittadini non pagano l'IVA, questo non è un rinvio, ma è un fatto. Se entro giugno non hanno pagato la prima rata dell'IMU, non è un rinvio, è un fatto. Se col decreto per 18 mesi si assumeranno i giovani, troppo poco, eccetera, zero contributo, è un fatto. è sufficiente? Assolutamente no. Stiamo lavorando da 55 giorni per arrivare poi a rendere strutturale l'eliminazione dell'IMU per la prima casa e a rivederla complessivamente. Penso per esempio ai beni strumentali delle imprese, a far sì che l'aumento dell'IVA sia prorogata quantomeno al 1 gennaio 2014 e a lavorare su questa grande sfida che è l'abbassamento della pressione fiscale per ridare forza all'economia e alle imprese. Io sono molto soddisfatto di quello che sta facendo questo governo proprio per i primi giorni, in una situazione drammatica e eccezionale. Non è sufficiente, l'IMU e la rivisitazione complessiva dell'IMU è un punto strategico di questo governo, lo ha detto anche Letta, quindi io non vedo perché dobbiamo farci i problemi quando non ci sono. Mentre oggi mi sembra che il vero problema che noi dobbiamo affrontare è come, magari attraverso l'attuazione della delega fiscale, noi possiamo finalmente abbassare la pressione fiscale e ripensare complessivamente agli strumenti di tassazione, penso all'IVA, penso ovviamente alla revisione di una serie di meccanismi, perché per dare vere risorse e sfruttare bene le risorse che adesso l'Europa ci darà. Sono le 17.24, questo è Focus Economia, vi ricordo che il numero per i vostri sms è 349-238-6666 e andiamo ora ad approfondire il primo tema della giornata sullo scandalo, o presunto tale, che ha colpito le principali banche di investimento mondiali, accusate di aver violato le regole della concorrenza stringendo accordi illegali sul mercato dei derivati tra il 2006 e il 2009. E hanno inventato tante belle siglette per mascherare il grande debito: CMO, CDO, SIU, ABS. Scommetto che ci sono al massimo 75 persone in tutto il mondo che sanno che cosa sono. Beh, adesso ve lo dico io: sono solo delle ADM. Armi di distruzione di massa. Mentre ero dentro, ecco che cosa sono. Mi è sembrato che l'avidità sia diventata ancora più avida e con l'aggiunta di un pizzico di invidia. I signori degli hedge fund se ne andavano a casa con 50-100 milioni di dollari l'anno. Così anche il banchiere si guarda intorno e dice: mica sono l'ultimo imbecille. E comincia a usare la leva finanziaria sugli interessi fino a 40-50 a 1. Con i vostri soldi. Non con i suoi, con i vostri. E glielo lasciano fare. Tanto siete voi che avete fatto il mutuo. E il bello della faccenda è che nessuno è responsabile. Il fatto è che crediamo tutti alla stessa favola. L'anno scorso, signore e signori, il 40% di tutti i profitti societari americani era costituito da proventi finanziari, non dalla produzione o da qualcosa che avesse comunque a che fare con le necessità delle persone. La verità è che ci siamo tutti dentro. Banche, consumatori, tutti muoviamo la giostra dei soldi. Prendiamo un dollaro, lo pompiamo di steroidi e lo chiamiamo leva finanziaria. La madre di ogni male di oggi è la speculazione. Questo forse l'avete riconosciuto, era Gordon Gekko, interpretato da Michael Douglas nel film Wall Street, Il denaro non dorme mai, Money Never Sleeps. Non so se questo scandalo in realtà sia di tale ampiezza come quelli che delineava Gordon Gekko, però senz'altro sono coinvolte banche molto importanti secondo la Commissione Europea: Bank of America, Merrill Lynch, Barclays, Bear Stearns, JP Morgan, Morgan Stanley. Ma cerchiamo di capirne di più ora parlando con Beda Romano, corrispondente da Bruxelles del Sole 24 Ore, che ha sentito cosa ha detto il commissario europeo per la concorrenza Joachim Almunia e cosa hanno detto i suoi uomini. Pronto, buonasera Beda Romano. Buonasera. Come va? Allora, questo riesce a spiegarci un po' quali sono le accuse che la Commissione europea avanza nei confronti di questi istituti che sarebbero coinvolti? Si parla, mi pare, di 13 istituti, tutti di grosso calibro. Sì, in realtà ci sono banche e ci sono associazioni. Il commissario Almunia ha cercato di spiegare oggi a Bruxelles che si tratta di una situazione di collusione del mercato. In altre parole, queste banche avrebbero in un modo o nell'altro bloccato l'accesso del mercato ad altri ad altre istituti di credito o ad altre istituzioni più semplicemente, per evitare così di suddividere la torta su un numero sempre crescente di protagonisti e di attori. La vicenda probabilmente è una vicenda scattata nel 2006, quindi prima dello scoppio della crisi finanziaria, quando questi derivati, soprattutto i credit default swaps, in altre parole i derivati che assicurano l'investitore contro il fallimento di uno Stato, questi derivati erano particolarmente utilizzati ed erano particolarmente generosi nel dare profitti alle banche. Allora, queste banche avrebbero in un modo o nell'altro bloccato l'accesso a un certo numero di istituzioni, tra cui la Deutsche Börse, che nel 2006 volle cercare di entrare su questo mercato, che era un mercato non regolamentato, era over the counter. Facendo così, le autorità comunitarie hanno capito che dietro a questo atteggiamento da parte di queste banche c'era proprio il tentativo di bloccare l'accesso al mercato, ed è questo il punto su cui si sta focalizzando l'indagine della Commissione. La Commissione ha mandato in questi giorni una lettera di obiezione a queste istituzioni finanziarie, con il resoconto preliminare di una indagine iniziata ormai parecchi mesi fa. A questo punto le banche devono spiegarsi e convincere la Commissione che l'analisi dell'indagine è sbagliata. Quindi ci sono delle accuse di un comportamento illecito, una sorta di cartello che comunque immagino la Commissione abbia degli elementi piuttosto fondati, se siamo già arrivati alla formalizzazione di queste accuse, no? Assolutamente, è molto probabile che la Commissione sappia esattamente come si sono svolte le cose, e oggi per certi aspetti la Commissione l'ha ammesso, ha spiegato chiaramente che la vicenda è una vicenda che risale a circa 7 anni fa, 2006-2009, e ha fatto capire di avere a questo punto tutte le carte in regola per infliggere una multa a queste istituzioni finanziarie, multa che potrebbe essere pari al 10% del fatturato. Beh, quindi si tratta di una multa molto molto alta. Mi pare che sia un caso, insomma, molto spinoso e che possa essere annoverato tra quelli più importanti aperti ora a Bruxelles, oltre a, sappiamo, quello molto adesso che sta impegnando molto i funzionari della concorrenza su Google, ma questo cartello mi sembra possa essere annoverato tra i casi più importanti aperti a Bruxelles, no? Sì, direi proprio di sì. Non è il primo e rischia di non essere l'unico o l'ultimo. Almunia sta gestendo la vicenda Google, naturalmente, che occupa le pagine dei giornali negli ultimi tempi, ma c'è tutto un dossier finanziario nelle mani del commissario alla concorrenza. Non dobbiamo dimenticare che questa vicenda è parallela a un'altra vicenda, quella della manipolazione di tassi di interesse da parte di un certo numero di banche, in particolare il LIBOR e l'Euribor, tassi di interesse che sarebbero stati manipolati dalle banche pur di poter gestire meglio i profitti in questo campo. Stiamo assistendo per certi aspetti a una resa dei conti tra le autorità pubbliche e le banche. La crisi finanziaria è scoppiata per molti aspetti perché c'è stata una carenza di controllo da parte delle autorità pubbliche sulle istituzioni finanziarie. Oggi il pendolo sta voltando dall'altra parte e le autorità pubbliche, in questo caso la Commissione, stanno cercando di rimettere sotto controllo le istituzioni finanziarie. E forse questo può essere anche un modo per riportare popolarità all'Europa in un momento in cui non sempre gode di buona stampa, no? Sì, assolutamente. Bisogna sempre cercare di fare attenzione in questi frangenti, nel senso che è evidente che la crisi finanziaria è scoppiata perché le autorità pubbliche hanno girato lo sguardo dall'altra parte, perché in quel frangente nessuno aveva veramente interesse a bloccare una macchina che bene o male dava soddisfazione a tutti, alle banche, agli investitori, ai consumatori e anche per certi versi ai governi. Oggi stiamo assistendo a un ritorno indietro, al desiderio di meglio controllare le istituzioni finanziarie, e evidentemente bisogna trovare il giusto equilibrio, e non è cosa sempre facile. Bene, grazie mille a Beda Romano da Bruxelles, che ci ha aiutato a capire questo scandalo molto importante che sta partendo da Bruxelles. E ora vi lascio con il meteo e la pubblicità. Sono le 17.38, questo è Focus Economia, io sono Enrico Brivio, vi ricordo il numero per i vostri sms 349-238-6666, già ne ho visto che ricordavano sul scandalo dei derivati che si sta scoperchiando un altro pentolone, ma tutto rischia di risolversi in una bolla di sapone, too big to fail, troppo grande per fallire queste grandi banche. E anche c'è chi mi dice che la colpa di questi scandali anche della liberalizzazione decisa da Clinton a fine anni 90. Eh sì, un po' di responsabilità ce l'ha avuta anche quell'amministrazione americana. Ma adesso andiamo a vedere le borse in una giornata positiva, andiamo alle notizie di borsa. Ecco, dunque, il FTSE Mibol Share è salito dell'1,41%, mentre il FTSE MIB dell'1,45%. Bene in Germania DAX 30, ma meno bene di quanto sia andata la borsa italiana, con uno 0,31%. In Francia il CAC 40 al rialzo dello 0,76%, mentre vediamo che il Dow Jones è circa l'1%. E lo Standard & Poor's 500 è a 1,12, quindi insomma la borsa italiana con il FTSE All Share all'1,41% è stata una delle migliori in Italia. E andiamo ora a capire con Paolo Paronetto, giornalista di Radio Core Sole 24 Ore, il perché di questa tonicità della borsa italiana. Pronto? Ciao Paolo. Ciao a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, che cosa ha determinato questo andamento positivo di oggi della borsa italiana? Beh, diciamo che tutte le borse europee oggi hanno approfittato dei dati sull'attività manifatturiera nel vecchio continente diffusi in mattinata, che sono stati migliori del previsto e quindi hanno sostenuto i listini. In particolare i dati migliori erano proprio quelli dell'Italia e della Spagna, che infatti sono state le due piazze che hanno messo a segno i rialzi maggiori. Madrid è stata la migliore di tutte, ha chiuso in rialzo dell'1,86%, questo ha bilanciato la parziale delusione per il dato tedesco, che invece non è andato benissimo. Infatti la borsa di Francoforte ha chiuso in coda, come ricordavi tu, con un più 0,31%. Anche il dato sulla manifattura negli Stati Uniti è stato migliore delle attese e infatti anche Wall Street sta guadagnando circa un punto percentuale. Quindi una giornata di rivincita dei cosiddetti pigs, dei paesi periferici nei confronti della Germania. E in borsa italiana, vabbè, la migliore è stata RCS, abbiamo detto sospesa per eccesso di rialzo, su questo caso poi torneremo. Però rimbalzano anche società che avevano perso molto nei giorni scorsi, come Saipem dopo i conti e Mediobanca dopo la presentazione del piano, no? Sì, esattamente, diciamo che il clima positivo ha consentito ad alcuni titoli molto penalizzati di recente di recuperare parte del terreno perso. Saipem è stata in particolare la migliore del FTSE MIB, ha chiuso in rialzo dell'8,09%, ricordiamo che la società da metà giugno, dopo il profit warning sui conti 2013, aveva perso il 38% fino a venerdì. E lo stesso discorso si può fare per Mediobanca, che è stato il secondo miglior titolo, più 5,2%, le quotazioni di Piazza Itacucci avevano perso circa il 21,3% dal 18 giugno scorso, e accentuando il calo dopo la presentazione del nuovo piano industriale il 20 giugno scorso. scorso, quindi diciamo che questi sono assestamenti di titoli che hanno approfittato del momento per recuperare terreno. Ebbene anche di Azorin, come si spiega la performance oltre più 3%? Sì, è stato uno dei titoli migliori fin dall'avvio di questa mattina. Nel weekend sono uscite indicazioni che confermano i target 2013 dal punto di vista del conto economico, e inoltre la società ha annunciato il lancio di due nuovi test clinici che secondo gli analisti confermano il track record positivo fin qui del business del gruppo, e quindi sono segnali positivi sullo sviluppo e futuro della società. Positiva anche Telecom Italia, c'erano indiscrezioni di interessi di qualcuno per la società della rete? Sì, esattamente. Telecom è partita molto bene proprio sulle indiscrezioni del Financial Times, che parlavano di fondi del Qatar interessati a entrare nel capitale della nuova società della rete. C'è da dire tuttavia che nel pomeriggio il titolo ha frenato e ha chiuso a più 1,12%. Infatti in questi minuti è arrivata la smentita di Telecom Italia, che definisce priva di fondamento le indiscrezioni, quindi diciamo che questo il diffondersi di rumors su questa smentita di Telecom hanno raffreddato un po' l'andamento del titolo. E poi anche le banche forse hanno beneficiato anche dello spread in calo intorno ai 272 punti, possibile? Sì, esattamente, lo spread è sceso come conseguenza appunto di questo clima di fiducia che è tornato oggi un po' a guidare i mercati, di conseguenza anche le banche che risentono sempre molto velocemente di questi cambi di umore del mercato, oggi sono stati tra i titoli premiati, in particolare la Popolare di Milano più 4,2%, che la settimana scorsa era stato tra i più penalizzato. E invece vedo tra i titoli che sono andati piuttosto male Mediaset e Pirelli, perché? Sì, su Mediaset si può fare il discorso inverso rispetto a quello che abbiamo fatto su Saipem e Mediobanca. Il titolo la scorsa settimana aveva guadagnato il 15%, quindi oggi sono scattate le prese di beneficio, e soprattutto perché gli investitori aspettano la rappresentazione dei palinsesti autunnali, che sarà fatta domani, per capire se la società ha deciso di investire sulla programmazione, dando in questo modo un segnale di fiducia sulla ripresa della pubblicità, oppure se invece saranno palinsesti più prudenti e da cui il mercato potrebbe trarre quindi indicazioni negative. In attesa di questo alcuni investitori sono passati all'incasso e hanno venduto il titolo. Ho capito. Va bene, grazie Paolo, buona serata. Buona serata a voi. Quindi rivedendo un po' insomma i migliori e i peggiori di oggi, o al di là di RCS che come abbiamo detto è stata sospesa per eccesso di rialzo, Saipem con un aumento dell'8,09%, seguita da Mediobanca 5,2%, A2A 4,29%, Banca Popolare di Milano, MPS, G-Tech, Diasorin, Luxottica, Prismian e la Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Questa la top 10 oggi del 10 titoli che sono andati meglio, mentre invece in ultima posizione Mediaset, male Buzzi Unicem, UbiBanca, Pirelli, Snam, Terna, Autogrill, Banco Popolare, Finmeccanica, Parmalat e Campari. Questa la situazione, ed ora passiamo, prima di passare anzi alle notizie per chi viaggia, vi posso dire che affronteremo un po' più in profondità il caso RCS e la decisione di John Elkann di essere un socio di riferimento in modo più deciso di quanto si pensasse fino alla settimana scorsa. Ed ora le notizie per chi viaggia. Allora, ed ecco il caso RCS, un caso importante perché, come sapete, dal gruppo, dalle sorti del gruppo dipendono anche le sorti del Corriere della Sera e di giornali molto importanti, tra cui anche la Gazzetta dello Sport. Fiat, come sapete, è diventato il primo azionista del gruppo RCS, investendo 90 milioni di euro per l'acquisto di quasi 11 milioni di di diritti legati all'aumento di capitale. Il gruppo torinese così ha proiettato la sua quota oltre il 20% davanti a Mediobanca 14,9% e Della Valle 8,7%. Poi ci sono Intesa San Paolo, Fonsai, Pirelli e via via gli altri, Rotelli, Italmobiliare. E per approfondire però insomma questo caso e capire che cosa sta succedendo a RCS abbiamo con noi Marigia Mangano del Sole 24 Ore. Buonasera Marigia. Buonasera. Allora, abbiamo questa situazione che si è determinata oggi di un eccesso di rialzo di RCS, un po' una coda di ciò che era successo venerdì, o ci sono anche elementi nuovi secondo te? Allora, il titolo appunto, come hai già detto, è salito del 26% e questo dopo il rafforzamento della Fiat al 20%. In realtà il mercato sta anche un po' speculando su quello che può essere l'assetto proprietario del Corriere, nel senso che è ancora tutto poco chiaro, perché da un lato c'è Diego Della Valle che inizialmente era candidato a diventare primo azionista e poi non è riuscito a trovare un accordo con i soci di riferimento, e poi c'è stato il blitz della Fiat. Oggi John Elkann ha cercato un po' di chiarire alcuni punti, peraltro sul futuro del gruppo. Oggi ha incontrato i vertici di Mediobanca, che appunto è socia, è uno dei primi soci di RCS, ovviamente dietro la Fiat a questo punto, e ha affermato che non c'è nessun incontro con Diego Della Valle, incontro che si era vociferato nel weekend. Inoltre Elkann ha escluso anche che ci siano delle alleanze in vista, un riferimento alle voci che vedevano Murdoch, diciamo, uno dei potenziali candidati a entrare nel gruppo sempre in una fase successiva. Elkann lo ha escluso al momento. A questo punto le attese sono, diciamo, a fine mese, quando ci sarà il patto di sindacato di RCS e si valuterà un po' il da farsi. Stando a, diciamo, indiscrezioni, l'obiettivo sarebbe quello di procedere un po' a una separazione degli asset, che vanno relativamente bene, come il Corriere o come la Gazzetta, dagli asset esteri, quindi dalla Spagna e dai libri. Però soltanto dopo venerdì, perché il 5 luglio scade il termine per esercitare i diritti, quando, diciamo, saranno chiare anche le posizioni post aumento dei vari soci, le discussioni potranno entrare nel vivo. Il tavolo, c'è sempre la possibilità anche di fare uno scioglimento del patto, anche se ci sono indiscrezioni che riferiscono di un possibile patto più leggero, magari al 30%. Comunque la situazione è in piena evoluzione e quindi le attese sono sul 5 luglio, quando l'assetto del Corriere sarà più chiaro. Quindi un'ipotesi di scorporo senza però alleanze con Murdoch, senza alleanze con gruppi stranieri, perlomeno è quanto ha detto oggi Elkann, giusto? Cioè, al momento non ci sono delle alleanze, secondo appunto quanto detto dal presidente della Fiat, però le voci in realtà vedono comunque un ruolo di Murdoch, magari in una fase successiva, dato che oggi le priorità sono altre, bisogna risanare il gruppo, ristrutturarlo e decidere anche in che modo ristrutturarlo, quindi se attraverso scorporo, quindi una sorta di spezzatino, oppure procedere in altre direzioni. Saranno tutti argomenti che comunque verranno affrontati a partire da lunedì prossimo. Ma resta poi un po' il punto interrogativo sull'atteggiamento di Della Valle. C'è qualche indicazione secondo te come rimarrà in disparte, oppure si può aspettare qualche contromossa di Della Valle? Su questo punto, diciamo che le voci sono discordanti. C'è chi dice che Della Valle andrà a sottoscrivere solo la quota di sua pertinenza, che è l'8,7%, altri dicono che invece potrebbe, cioè, ci si potrebbe aspettare anche un blitz di Della Valle. In realtà il tavolo con gli altri azionisti da parte di Della Valle è stato aperto, Della Valle aveva fatto una serie di richieste, cambio del piano industriale, cambio del management, però richieste che al momento non risultano essere state accettate dai soci, quindi diciamo anche questo aspetto è in piena evoluzione, si vedrà nulla e certo fino a quando non si scopriranno le carte con la chiusura dell'aumento di capitale. Ma secondo te la mossa di Elkann quindi rafforza la posizione dell'attuale management o ci potrebbe essere anche lì qualche sorpresa? No, secondo me personalmente dalle persone che ho sentito rafforza. Elkann è deciso a difendere comunque l'attuale management di RCS. Ovviamente è stato lui che un anno fa ha in qualche modo imposto l'amministratore delegato e il consiglio di amministrazione, quindi lui comunque la linea al momento è questa. Si vedrà, perché tutto appunto è strettamente legato a quali saranno le evoluzioni del gruppo, dunque se resterà RCS come la vediamo oggi oppure si procederà con uno spezzatino e quindi con più società che dovranno essere gestite da delle figure professionali probabilmente diverse. Benissimo, io ti ringrazio Marigia, ci risentiremo magari in futuro perché mi pare che ci si possa aspettare ancora qualche sorpresa dal caso RCS. Grazie. Grazie, buonasera. Buona serata. E tra l'altro appunto avete sentito, come diceva Marigia Mangano, John Elkann è stato molto deciso, insomma, ha detto sono molto fiducioso del futuro di RCS ed è questa la ragione per cui abbiamo sottoscritto l'aumento di capitale, abbiamo così deciso di fare di più e quindi questo investimento che supera i 90 milioni, come ha ricordato Elkann, però in questo cammino abbiamo compagni di strada con cui ci troviamo assolutamente d'accordo su quello che è il futuro di RCS, che è un futuro all'altezza del suo grande passato. Quindi insomma questa situazione è abbastanza chiara, però restano appunto dei punti interrogativi poi su quale sarà il cammino, il piano che Elkann intende approntare per il rilancio di RCS. Intanto alcune altre notizie. A Torino c'è una manifestazione davanti alla sede RAI, la TNTCL ha confermato gli 854 licenziamenti, ha confermato gli 854 licenziamenti annunciati nei giorni scorsi e lo ha reso noto la CGIL, quindi è stato confermato lo sciopero di 8 ore già indetto per domani e a Torino è prevista una manifestazione davanti alla sede della RAI. Un altro fronte caldo è quello della Natuzzi, immediato sciopero generale in tutti gli stabilimenti della Natuzzi è stato annunciato in un comunicato congiunto dalle segreterie nazionali FENEL, UIL, CISL e Filea CGIL. Ed ora lasciamo la linea alle notizie del GR. Buonasera, questa è Focus Economia, io sono Enrico Brivio, sono le 18.08. Vi ricordo il numero per il vostro SMS è 349-238-6666. E andiamo adesso a vedere un po' com'è andato il mercato dell'auto, ahimè un'altra flessione dopo quelle registrate nei primi 4 mesi dell'anno, il mercato italiano a giugno è sceso del 5,51%. Quindi 122.008 nuove vetture rispetto alle 129.000 di un anno fa. Ma per capire meglio come è andato il mercato e quali sono un po' le tendenze in questo momento, parliamo con Gianprimo Quagliano, direttore del Centro Studi Promotor. Buonasera Quagliano. Buonasera. Allora, un'altra flessione, anche se in termini percentuali inferiore a quella di aprile, che era il 10,8, e di maggio, che era dell'8%, però pur sempre un'altra flessione del 5,51% delle immatricolazioni. Ecco, come si deve leggere questo dato? Purtroppo questa serie nera sembra non finire mai, è cominciata subito dopo gli incentivi del 2010, poi ci sono stati ben 39 cali e soltanto due piccoli rimbalzi. Il calo sta però ridimensionandosi, questo 5,51 è veramente molto al di sotto dei livelli dell'anno scorso, fra l'altro c'è stato anche un giorno lavorato in meno quest'anno, quindi sostanzialmente potrebbe essere quasi un pareggio questo del mese di giugno. Però complessivamente il mercato è sceso su livelli infimi. Se noi proiettiamo i risultati dei primi sei mesi su base annua, otteniamo un volume di immatricolazioni di 1.260.000 unità, che è un livello da anni 70, un livello che è compatibile con l'auto, con le auto che si vendevano 40 anni fa, quindi siamo veramente in una situazione estremamente difficile per il mercato dell'auto. Ecco, in che misura questa contrazione è diciamo congiunturale, dettata da questa crisi, o può essere vista come strutturale, cioè di un mercato saturo, di consumatori che ormai cercano di ottimizzare i propri consumi, di avere magari una macchina invece di due in famiglia e fanno scelte di questo tipo in pianta stabile? A mio avviso è una crisi essenzialmente congiunturale, anche se il mercato italiano è sicuramente saturo, ma il fatto che come sono saturi tutti i grandi mercati dei paesi economicamente di antica motorizzazione, di antico sviluppo economico. Però c'è un parco auto, che sono in particolare 36 milioni di autovetture, che è talmente grande che semplicemente il rinnovo di questo parco auto assicura una domanda che dovrebbe essere intorno a 2 milioni e 3, 2 milioni e 2 più o meno, no? Quindi non credo che questa non è una crisi, a mio avviso, strutturale. Si parla di demotorizzazione, a mio avviso non c'è demotorizzazione, c'è una piccola flessione del parco che è dovuta appunto al fatto che le sostituzioni vengono rinviate perché la gente da un lato non ha i soldi e quando li ha è in una situazione di sfiducia nei confronti delle prospettive dell'economia, per cui non li spende, tende a risparmiarli al massimo. Quindi questo ha portato per l'automobile, che è un prodotto il cui acquisto si può rimandare nella maggior parte dei casi, a un calo sui livelli anticrisi che è del 50%, mentre la produzione industriale è calata del 25% e il PIL è calato intorno al 7,5%, per cui c'è un gap negativo estremamente grave che dipende essenzialmente da una crisi di fiducia nelle prospettive dell'economia. Ma si può prevedere un momento in cui questi rinvii arriveranno alla fine? Cioè, ci può essere tecnicamente un momento in cui poi i consumatori si riaffacciano ai consumi magari in modo diffuso? Sì, certamente, perché la domanda di sostituzione si comprime, ma poi a un certo punto le auto si possono riparare, ma non si possono riparare all'infinito. A un certo punto c'è una domanda di sostituzione che arriverà sul mercato e questo anche perché poi forse può diminuire un po' l'esigenza di automobili perché effettivamente ad esempio i treni ad alta velocità fanno una certa concorrenza all'automobile, svolgono un servizio buono e in qualche modo alternativo, ma in effetti all'automobile oggi non ci sono concrete alternative. E quindi la gente dovrà prima o poi sostituire anche le autovetture che ovviamente ogni anno che passa invecchiano di più e quindi sono meno efficienti, più inquinanti e alla fine devono essere sostituite. Ecco, il gruppo Fiat ha messo su un calo del 15,24% delle immatricolazioni. È un segnale preoccupante oppure era in linea con le attese? ma è un segnale negativo naturalmente, però ci sono delle ragioni. Il gruppo Fiat soffre da qualche mese di difficoltà che ha avuto con alcuni fornitori e questo non consente di far fronte con la produzione al tipo di domande di autovetture che vengono richieste. Poi dichiara il gruppo Fiat che in questo mese di maggio, di giugno, ha cercato di privilegiare più i margini, che sono molto compressi naturalmente, che i numeri di immatricolazione, per dirla in termini più chiari. Ha cercato di fare meno chilometri zero in passato e quindi questo ha pagato, lo ha pagato la Fiat in termini di quota di mercato, speriamo che lo abbia recuperato in termini di maggiori profitti. Ecco, ma ci sono gruppi automobilistici o segmenti di mercato che stanno andando bene nonostante la tendenza generale negativa? Qualche marca che va bene c'è sempre, ci sono gruppi che perdono meno in Italia ma anche in Europa, perdono meno le auto premium rispetto alle generaliste, questa è una tendenza che naturalmente è legata al fatto che la crisi colpisce in maniera maggiore i percettori di redditi medi e bassi che non i percettori di redditi più elevati, però in generale questa difficoltà del mercato riguarda sostanzialmente tutti. Anche le mini car, le piccole auto sono da città, le city car? Anche loro, sì, sono penalizzate anche loro, tutto il mercato è investito da questa fortissima situazione negativa economica, ma non solo, perché ci sono anche dei fattori specifici che penalizzano fortemente l'automobile, i prezzi della benzina e del gasolio, che sono ai livelli eccezionali, tra i più alti in Europa, i premi di assicurazione, pure ci sono difficoltà per accedere al credito e c'è soprattutto una tassazione sull'automobile che non ha riscontri in Europa e che è veramente vessatoria. Qui forse ci vorrebbe quantomeno un segnale da parte del governo, in attesa che riparta l'economia e faccia ripartire anche tutti i settori, compreso l'auto, ma il governo per un settore che ha perso il 50% rispetto al 25% dell'economia reale, forse un segnale positivo si potrebbe dare intervenendo dove è più facile intervenire, insomma più facile dal punto di vista tecnico, forse non dal punto di vista economico, cioè intervenendo su una tassazione sull'automobile che è veramente enorme. Va bene, grazie mille a Gianprimo Quagliano, direttore del Centro Studi Promotor. Buonasera. Grazie a lei e ai suoi ascoltatori. E noi ora andiamo con le notizie sul traffico. Buonasera, siamo a Focus Economia, sono le 18:18. Io sono Enrico Brivio, vi ricordo il numero per i vostri sms, è 349-238-6666 e poi vi ricordo anche la pagina di Facebook su Focus Economia. E adesso, come alcuni di voi forse sapranno, dalla mezzanotte siamo in 28 nell'Unione Europea. Sì, la Croazia è entrata a far parte a pieno titolo dell'Unione Europea, quindi questa Europa così in crisi, così in difficoltà, però continua ad avere un certo sex appeal. C'è ancora chi vuole entrare in Europa, la Croazia. Il Consiglio europeo che si è appena svolto a Bruxelles ha deciso anche l'inizio dei negoziati con la Serbia dal gennaio prossimo. E quindi viene da chiedersi se sia il caso di allargarsi ancora, visto i problemi che già esistono, visto i tanti contrasti che già ci sono tra chi è seduto al tavolo, però così è. E adesso vorrei un po' approfondire la questione della Croazia nell'Europa con Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, che conosce bene i Balcani e li ha conosciuti anche negli anni 90 molto bene, in tempi molto più tempestosi. Buonasera Alberto. Buonasera a voi. Allora, caro Alberto, qui Sì, dobbiamo aggiungere un posto a tavola. Secondo te che significato ha questa entrata della Croazia all'inizio dei negoziati con la Serbia, un accordo di stabilizzazione col Kosovo? Ecco, forse negli anni 90 era quasi impossibile pensare a questo. Mi ricordo che quando Prodi arrivò a Bruxelles come presidente della Commissione parlò di portare i Balcani in Europa, alcuni scandinavi e nordici lo guardavano un po' come un pazzo, un visionario. Invece questo sta succedendo. Ma sì, perché i Balcani sono sempre stati un po' considerati l'altra Europa, no? Quella da cui prendere le distanze, un'Europa che aveva molte storie, tradizioni e culture che si allontanavano da quelle che vengono considerate il cuore dell'Europa. In realtà poi sappiamo bene cosa è successo con la disgregazione della Jugoslavia. 1991, dal 91 al 99 ci sono stati un decennio di guerre con 300.000 morti e oltre 4 milioni di profughi, e adesso pezzo dopo pezzo i problemi dei Balcani vengono un po' diluiti in questa stessa Europa. Finita la ex Jugoslavia, in fondo Belgrado verrà sostituita come capitale di questi paesi da Bruxelles. Questo è un po' il senso di quello che sta accadendo, che è certamente un processo storico, perché come dicevi tu prima c'è il processo per l'adesione della Serbia nel 2014, quello per l'adesione e l'apertura del negoziato per la Serbia, dell'adesione del Kosovo, anche se rimangono fuori pezzi ancora importanti dei Balcani come l'Albania, il Montenegro, la Macedonia, e prima o poi entreranno anche questi, io credo. Ecco, il significato politico è chiaro. Ecco, da un punto di vista economico-commerciale, in fondo la Croazia è il primo partner commerciale, l'Italia è il primo partner commerciale di Zagabria, con un interscambio superiore a 4 miliardi di euro. Ecco, al di là insomma degli ovvi rapporti, per esempio nel turismo, c'è anche una valenza commerciale economica di questa entrata per l'Italia? Ma non c'è dubbio, perché vogliamo essere del tutto un po' brutali, ecco, l'ingresso della Croazia renderà Zagabria circa 600 milioni di dollari nel primo anno e forse una decina di miliardi da qui al 2020. Insomma, sono state di cifre considerevoli che potrebbero cominciare a dare un impulso a questa economia croata che, come dicevi tu prima, è basata soprattutto sul turismo. Un quarto, un quinto del PIL dipendono dall'ingresso di questi 10-11 milioni di turisti l'anno, e il resto dell'economia piuttosto invece batte in testa, tant'è vero che c'è una disoccupazione ufficiale del 20%, ma nelle fasce giovanili supera addirittura il 50%, quindi questo ingresso in Europa in qualche modo potrebbe aprire nuove prospettive anche per gli stessi croati. Ecco, Bild, che lo ricordiamo è un tabloid, non è un giornale autorevolissimo, ma è molto seguito e parla un po' alla pancia dei tedeschi, oggi ha detto: debiti, corruzione, forte tasso di disoccupazione, ecco cos'è la Croazia, ha commentato, e quindi ha paventato il fatto che Zagabria diventi presto una nuova Grecia pronta a inghiottire i miliardi di Berlino. Secondo te c'è questo rischio? Ma guarda, bisognerebbe anche ogni tanto ricordare ai tedeschi quella che era la loro politica di qualche anno fa. Furono proprio loro, fu proprio la Germania a sostenere l'indipendenza della Croazia fortemente contro Belgrado, e a sostenerne anche lo sforzo bellico contro la Serbia di Milosevic. Quindi la Germania vedeva la Croazia in realtà un nuovo paese di espansione una volta che si fosse staccata, come poi è avvenuto, dalla Jugoslavia, tant'è vero che poi gli investimenti tedeschi sono stati anche abbastanza rilevanti in quell'area. Ora che la Croazia e il resto dei Balcani possano diventare una nuova Grecia, questo in effetti c'è, perché il debito pubblico croato è molto alto, tant'è vero che uno dei primi eventi che potrebbero accadere con l'ingresso di Zagabria sarebbe una procedura, appunto, d'apertura per inflazione del debito pubblico. Certo, questo, però c'è anche da dire che l'Italia al tavolo europeo può trovare un altro paese che ha sensibilità nei confronti di certi problemi, e soprattutto di quello della disoccupazione, visto che anche in Croazia abbiamo una disoccupazione che viaggia sopra il 20% e una disoccupazione giovanile al 40%, no? Ma non c'è dubbio, secondo me poi l'ingresso della Croazia, accompagnato poi dall'apertura del negoziato di adesione e dell'ingresso della Serbia, rappresenta per noi italiani un evento importante. Noi siamo i principali partner economici, come commerciali, come ricordavi prima, di Zagabria, ma lo siamo anche di Belgrado. Quindi per noi si tratta di due mercati importanti, come lo sono sempre stati in realtà storicamente, e l'ingresso nell'Unione Europea in qualche modo dovrebbe favorirci. Abbiamo forti investimenti in quell'area, soprattutto in Serbia, ricordiamo, per tutti, la Zastava, lo stabilimento della Fiat vicino Belgrado, ma anche i progetti per il passaggio delle pipeline del gas, che non sono per niente da trascurare. Eh sì, sono paesi indubbiamente su una rotta energetica importante, no? Sì, non c'è dubbio, perché attenzione, cosa sono costati quei decenni di guerre balcaniche? Sono costati molto all'Europa, non solo in termini ovviamente umani, perché le perdite sono state fortissime, ma sono stati 10 anni in cui praticamente diventava impossibile attraversare i Balcani. C'è stata una sorta di interruzione della continuità territoriale dell'Europa, che è stata una ferita sanguinante per lungo tempo. Se adesso l'altra Europa diventerà un po' meno altra Europa, io penso che di un evento importante non solo dal punto di vista storico per i paesi balcanici, ma anche per noi europei. Senz'altro. E poi c'è da dire che troveranno un'Europa abbastanza familiare, perché è un'Europa un po' balcanizzata su tanti temi, no? Su tanti temi economici. No, non c'è dubbio, questo sicuramente, anzi, diciamocela tutta, il fatto appunto che i problemi dei Balcani verranno diluiti in Europa renderanno l'aggettivo balcanico un po' diverso da prima. Già lo usiamo dappertutto, no? Quando parliamo della Siria parliamo di paese balcanizzato, quando parliamo del Medio Oriente parliamo di una regione balcanizzata. Insomma, credo che se in qualche modo si cambia l'accezione negativa dell'aggettivo balcanico, non è soltanto una questione di nominalismo e di aggettivi, ma anche di sostanza. Grazie mille ad Alberto Negri, buona serata. Grazie a voi. Tra l'altro, la riprova che in Europa continuano i problemi, è arrivata appena ora la notizia che si è dimesso il ministro delle finanze portoghese Vítor Gaspar, numero 2 del governo e principale responsabile della strategia economica del paese. Quindi insomma i problemi al di là della Croazia in Europa continuano ad esserci, e soprattutto sulla strategia economica da imboccare per rilanciare la crescita. E quindi qui possiamo concludere. Volevo anche rassicurare, ho visto sms che chiedono sulla salute di Sebastiano Barisoni, sta benissimo e ritornerà, però dategli qualche giorno di respiro, e per questo sono qui io. Noi ci sentiremo domani con Focus Economia poco dopo le 17. Grazie in redazione a Barbara Bianchi e Mauro Del Corvo, e in regia a Paolo Corleoni. Buona serata. Radio 24. La passione si sente.